Lugariello. Sei tu che non entri, eh? Io già entro, sei tu che non entri. Siamo anche ieri sera. No, io voglio, ho altre cose da fare, poco tempo, poi sinceramente parlando non è che mi interessi più di tanto, eh. Ah, non c'è più nessuno in radio. Scusa, cazzo, stavo ascoltando un messaggio che devo sistemare un connettore di una TV. Stavi dicendo? Abbonato, non c'è più nessuno in radio. Non so, non c'è nessuno. Ieri, vabbè, c'era Antonio. Davanti ieri mi pare, boh. Ah, ieri c'era Antonio e Roberto. Davanti ieri c'era Gianni, io e Antonio. Solo che io poi, una volta mi metto a letto, mi viglia la biocco. No, e lui c'è un sacco di cose da fare, io poi ti ripeto, non è protetto, è così, molte ho cambiato, ho altri progetti, altre cose, no, e poi sinceramente no, non me ne frutti di nulla. Ho già fatto Lucariè, divertitevi voi, ogni tanto entra a salutarvi e basta, ma no, non è che mi interessi più di tanto. Ehi, vabbè, cosa ventra qua? Cosa ventra? Uia. Un casino, vabbè, pure io, vabbè, tempo c'è ma non c'è. Io sono manco riposato stasera, perché poi mi ha chiamato un amico per quanto riguarda la locomotiva che c'è a Latte Dolce, perché quello è Latte Dolce, non si chiama né Latte Dolce né Santa Maria di Pisa, si chiama, se non mi ricordo, l'hanno scritto, vabbè, secondo te come si chiama, dove c'è la locomotiva, non è quartiere Latte Dolce, ah, Runcu. Dovrebbe essere Runcu, è una piazza quella, piazza, adesso me lo ricordo, e io ho visto la TV, ma porca miseria, se l'ho fatto una volta un po' di manutenzione, una verniciatina, pulito l'erba, abbellito un po', messo un coso di verde, perché dai, che chi fugas, era bella, io l'ho conosciuta verde, nuova era. Ma io, vabbè, come si dice, per me è Latte Dolce, poi aspetta, ecco qua, non lo so, vabbè, alla fine non mi entra niente in tasca. Ma scusa, è praticamente di fronte alla mia vita marina, quello è Latte Dolce. Esatto. Quindi Latte Dolce, io lui non me ne intendo, dico, mi ricordo che quella è una piazza Menamento, però Latte Dolce, è chiaro che Latte Dolce, cosa c'entra? Quello è Latte Dolce, sì, perché qualcuno dice che non è Latte Dolce. Cazzo, una ragazza è stata sbranata da un branco di cani randaggi, ma tieni conto, ma vai tu e fidati. Un branco di cani randaggi, solo 10 pastori mare in mano erano, aveva tappezzi. Ma è morta? Sì, è morta, si era sbranata lui, ma stai scherzando? Cazzo, ma come c'è scritto che è morta? Una ragazza è stata sbranata da un branco di cani randaggi in Calabria, la vittima si chiama Simona Cavallaro, figlia di un gioielliere di Soveratto, stava passeggiando con il fidanzato che è fuggito ed è riuscito a salvarsi. Cazzo, se l'anziano è stata sbranata da un branco di cani randaggi, non ci sma di meglio. La vittima si chiama, ma non è morta allora, bruh, si chiama Alfa. Ma c'è vittima, bruh, ma tu è morta, forse è morta dopo, ci è arrivata a pezzi. Hanno aperto in due, 10 fattori male mani, te li berri, Anton, non stai scherzando. Uno l'hanno trovato ancora tutto sporco di sangue. Sì, è morta. Questa è morta dopo poco, però, non subito. Allora, praticamente all'arrivo dei carabinieri la ragazza era già morta per gravi ferite riportate nell'aggressione. Siccome convenisci con questo di Musciacca, ti penso che un po' ti difendi, eh? Per le mani in mano, se uno va anche bene, ma quando sono 10 l'uno lo so se ti difendi. Io sono cattivi sono, sono dei bestioni, cazzo, se trovi quei pastori maremmani grandi, che si bloccano i randaggi, che sono incrociati con chi si parte i fornesi, con chi si lascia perdere, meglio nulla, meglio non incontrarli mai, guarda. Ma, c'è un casino, tu stai attento, vedo, tu stai attento, veramente, come una telecamera a 90 gradi. No, poi sono 2 è difficile, di quella strada lì, di dirli, capiti, ti bisegge, cioè tu ti stai difendendo da uno, l'altro ti prende la gamba o al braccio, non è vicino a lui, lascia perdere. Perché figurati 10, ci sono arrivato a pesi, stai tutto il giornale. Ah, ok Mari. Ovaraccia, cazzo. Vabbè. Non è morta di Covid, non è morta di quello. Ed è morta sbranata. È un casino, bisogna stare un bel attenti veramente. Vabbè, ma quando è così, la natura purtroppo non ci puoi fare niente. Questi erano per i cavoli sciuri, si tenne magna e una volta edda. Edda ce l'hai magnato, perché ce l'hai magnata, già basci. E vabbè, dove stai andando? In girella? In Italia, è vero. Harry Potter, c'è un po' di giorni di ferie, dovrebbe rientrare domani, già da giovedì, dovrebbe rientrare domani. E noi siamo a Domo, a casa. Ah, domani? Sì, dovrebbe rientrare domani l'aria, perché poi lunedì riprende a lavorare, capito? E noi siamo a Domo. Ah, ho capito, e vabbè. Cioè, vabbè, ma anche l'hai cambiato? Antenna ho cambiato, e ne ho un'altra, sì, c'è una J-Pod da 8,50 m, però 7 ottavi, non è 5 ottavi, è 7 ottavi, ma l'ho tolta perché sto facendo dei lavori dove era messa nel muro, di recinzione, e quindi l'ho staccata, adesso sono di nuovo con la mantova, perché la mantova è più in alto, quindi non mi dava fastidio, è una bella antenna, è 220 pagata. Una 7 ottavi d'onda, è 8,50 m, ancora più grande la mantova, ma è roba di segnali, l'ho provata, ma minchia, una camionata, molto più silenziosa, i segnali aumentano notevolmente, addirittura Roberto passa da 9,35 a 9,40, Antonio ho visto da 9,20 a 9,25 con la ricezione, Alghero mi arrivava 8, adesso mi arriva 9 con quell'antenna. È una buona antenna. Ma te l'ha pagata 200? Via, 180 più 20 di trasporto. Ma tu, non è come la Game Master, è tutta in alluminio, ma tu devi vedere, c'è il balum incorporato 1-1. È tutta in alluminio, ben fatta. Sono due antenne in uno. Se ti mando la foto. Come si chiama? Si chiama la, esiste un argomento, cazzo, te lo dico subito. Allora si chiama la Smartech verticale G-Pro per 27 MHz, 7 ottavi d'onda, Smartech. Ah, direttiva? No, non è direttiva, sono due antenne, una da 8,50 m e l'altra affiancata da 2 metri. Da 2 metri rotti, con le barre in acciaio ossidabile, molto ben fatta veramente, molto molto bella. Guarda, vabbè, leggi le caratteristiche, tiene 5 kW, fate il conto. Ma qua mi dà una direttiva qua, Smartech, innovazione antenna ad alta efficacia per la 27 MHz. Antenna 27 MHz, 11.000 TCB, IAGI, Delta Loop, alto guadagno, luminosità, basso rumore, robusta, però mi dà una direttiva qua. No, tu devi scrivere J-Pol, Smartech J-Pol, J lunga Pol, c'è anche la direttiva della Smartech, sì, come l'azienda. Una buonissima azienda, devi digitare J-Pol, verticale J-Pol, Smartech verticale J-Pol. Ah, allora, verticale J-Pol, immagini. Allora, verticale, eccola qua, sì, sono due, sì, ho capito. Eccola lì, 8,50 m, 7 ottavi d'onda, ma c'è una ricezione e una trasmissione favolosa. Adesso sto finendo dei lavori, questo mantello la porta del carrello, cioè sto facendo altre cose, quindi c'erano i carri in mezzo e l'ho tolta. Ma la grande ascia, 8,50 m, e 2 metri in più della mantova. Adesso guardo le caratteristiche. Vediamo un po'. E sta arrivando, praticamente vai a modulare quelli sul più tocchi. Sì, vabbè, sono col 430. 30 watt modulati, 20-30 modulati, sono una nuova mantova, però non sono con quella lì, capito? Allora, antenna verticale tipo di Polo, la capo di efficacia, eccellente per attività di expo, un traffico locale, 27 smart tech, un'antenna di a polarizzazione impedenza caratteristica 50 ohm, specifica di calcolo, il calcolo per la prestazione tipica dell'antenna smart tech VE, praticamente impedenza linea 450 ohm, cortocircuitata, ROS minimo a 50 ohm, 1.1, ora diciamo, sì. È bella, una bella antenna, è robusta, sì, è resistente. La tubazione, i tubi sono ma forse leggermente più stretti rispetto alla mantova come piantone, poi gli altri sono uguali. Ma come è fatta? Se la controlli bene, come è fatta è eccezionale, perché c'ha le barre con la battilite che mantengono un'antenna e l'altra, una in alto, una in basso, qui c'è il balo, ma l'attacco il PL è una cosa eccezionale come è fatto, ed è all'interno della battilite. Molto bella, sì, molto bella. Una proposta a quello che dove le mando le radio, che è diventato concessionario ufficiale, capito, per tutta l'Italia. Sono il primo che l'ha mandata in Sardegna, infatti la sto provando, gli ho già mandato le caratteristiche come prestazioni, è un po' più superiore alla Mantova, vabbè, 7 ottavi, Mantova è 5 ottavi, sia come ricezione che trasmissione superiore. Adesso la sto sperimentando, appena ho finito questi lavori la tiro su bene, alla stessa altezza della Mantova, e poi provo già a 3 metri più basso della Mantova, ne prende 5 segnali come ricezione. Questo non me ne dà però, forse perché è nuovo, cosa ne so, non me ne dà prezzo, su internet sono, allora, vediamo un po' età, non me ne dà, prezzo non me ne dà, antenna verticale, che no, vabbè, 100, allora qua dice, allora no, non è quella lì, e comunque si assomiglia. Antenna è a 6G, antenna verticale 50 MHz, no, ora costa 126 euro. E vabbè, cazzo di centuro, cazzo di un bel di no, non è buccia di gioca, no. 180 euro costa, più 20 di spedizione mi ha fatto a me, ma diciamo che a me la spedizione non ha più pagato, la verità, però non voleva dirne, comunque, 180 euro, ma è molto molto bella, molto robusta, e poi in alluminio non è, se li vale i soldi, capito, perché sono un agio di poco. Ho fatto vedere anche a Roberto, e infatti mi ha detto dimmi come va, perché lo prendo anch'io. KK, e niente, siccome è un'antenna che fa da 25 a 30 in continuo, ok, quindi sicuramente la uso come verticale, magari a fare qualche passaggio in HF, capito? Almeno in 10 metri, in 20 metri, così. Va bene, KK, cosa devi uscire? Sì, dopo. Devo mandare tutto a fare, devo sistemare una PSP, mi pare, una PlayStation, quindi quelle portatili che non carica. Dopo però, allora qua c'è questa Prosistel PST 1524VF, antenna verticale 4 bande, trapolata 10, 15, 20 e 40, con radiali, cazza, 270 euro quasi. No, vabbè, quelle sono verticali a 5 bande, 4 bande, no, non mi interessa. Ma tutti di lunga, questa l'ho presa perché praticamente gli avevo mandato i soldi per il filtro del 430, solo che non l'ha trovato, poi alla fine me l'ha trovata un'altra persona, infatti lunedì devo darle la radio per sistemarmela. Mi ha fatto una cortesia enorme, veramente. Cosa faccio? Ti mando giù i soldi o hai bisogno di qualcosa? Ho detto cosa c'hai? Ma tu guarda, sono concessionario, io mandami questa antenna, quanto ti raggiunge? Ho detto aggiungimi 80 euro e non ti faccio pagare il trasporto. E quindi ho aggiunto 80 euro e mi ha mandato questa antenna, capito? È successo così, altrimenti non mi avrei preso. Ah, beh, certo. E vabbè, io la mia dovrò sistemarla, smontarla e pulirla. Già sta andando bene, so quando piove non ci metto di balle, però lì voglio cambiare il palo. Infatti questo palo che ho qua è 4 metri, mi sa che ti ricordo visto, però vabbè, è un 4 metri praticamente uguale a quello delle antenne mix, antenne TV. Allora, questo qua è più massiccio di quello che c'ha Brickman, questo è molto più massiccio, è proprio in zingato, però lo so, il casino è anche le staffe, e anche quello lì che c'è, paura che magari un giorno si spaccano, grazie di mangiare questa antenna, ragazzi, fate un casino niente, mamma, su cui dimentichi. Ma quella di casa di tua madre? Allora? Lì, bisogna approfittarne adesso, te l'ho detto, quando sei pronto, mi fai un fischio e ci avremo organizzati, io e Franco, capito? Io le staffe le ho prese da Fusaro, non ne avevo, me le ho ordinate a piastra, attenzione che Fusaro c'ha belle piastre, belle robuste, da 14, capito? Molto molto belle, robuste, a tassello a muro, capito? Con la piastra tassellare a muro, molto molto robuste, ne ho preso due e l'ho messa praticamente nell'altro muro a fianco dove c'è la mantova. Nella mantova ho usato quelle che c'erano su a Carbonazzi, ti ricordi? Dove c'era attaccato quel tubo, il tubo lo stesso, quindi la mantova è a posto. Questa sto facendo lo stesso lavoro, però prima devo finire a qualcosa perché sto passando dei tubi vicino al muro per la raccolta della coppia romana, quindi mi sta volando fastidio. Me l'ha già smontata, non l'ho tolta, l'ho appoggiata a terra, ho messo il nylon sopra per non prendere polvere eccetera, adesso appena ho terminato poi la ripiazzo, capito? Ho capito. Comunque sta arrivando bene anche con questa qua, la voglia. Da dove sei sta arrivando non bene, benissimo, alla grande, diciamo che la radio è sempre la stessa, è sempre la stessa, va più che bene. Allora, il discorso della mia, vabbè, non è che mi interessi pulirla, mi interessa buttarla giù, vabbè, pulire lì il bocchettone dove attacca il cavo, dove attacca il PL, perché è all'aria, è a bagnomaria, forse per quello che è d'inverno, quando piove un po' mi salgono, un po', è a 1 e 2, ma 1 e 2, quasi a 2. Ne abbiamo già parlato, bisogna toglierla e fare il lavoro fatto bene, capito? Lavoro fatto bene. Sono in alto, non pensare che sia in basso, sono un po' più coperto rispetto a come ero prima, sono molto in alto, perché ero arrivo a Santiago 9, non è che da tutte le parti arrivo benissimo, sento tutti, quindi non mi interessa, l'importante è che senta. Come altezza sono ancora più alto io, ovvero, però lì era un sistema di più libero, qua sono più in mezzo agli alberi, capito? Sono molti molti alberi che mi possono ostacolare, però già l'importante è che ci sentiamo, è giusto per fare due chiacchiere d'inverno, poi da giù non me la fotti di bomba, non è che sto lì, non sono più frequente come prima tutti i santi giorni. Adesso mi ero di passaggio, ho visto il segnale, è di Michele Lugariello per salutarlo, ma mi sono già stufato di stare qua. Ehi, vabbè, quando si può fare due chiacchiere bene, se no pazienza. Come si dice, ma non ti prende il telefono lì, no? Poco prende, io sono passato a loro a fungere quando era Carbonazzi e non prende, loro hanno Windy 3 e prendono più di me, io me devo decidere di cambiare, ma sono sempre incasinato, sempre da tesoro, comprendo materiale, adesso voglio vendere un cantiere, d'ora, e c'è un sacco di cose da fare, tutto quello che è vero, faccio, mi sono chiuso tutto il cavello, ho fatto tutta la tubazione nuova della raccolta della coppia umana, un sacco di cose sto facendo, quindi non è che ho molta voglia di stare né in radio né al telefono. Però se vado fuori già va bene, non è un problema, perché qualcosa mi è mandato. No, non gli sto dicendo una cosa, fai lo metto a caricare, va. Sì. se nel caso domani esci, che sei a Sassa e fammi uno squillo, so ti chiamo io. No, devo dirti una cosa e basta. Via, va bene, va bene. No, io tutti i santi giorni esco. E la mattina io un'oretta come facevo prima mi devo uscire. Adesso domani mattina esco lo stesso, c'è la moto. Esco in moto, prendo il caffè, le sigarette, due chiacchiere con gli amici di sempre che ci trovavamo tutte le mattine al caffè, di via Carlo Felice, capito? E poi e la domenica mattina che ci vado al Tris, però esco tutte le mattine, non c'è problema, già ti chiami domani mattina. Tanto ti taglio la pedivella con la cosa, con la molecchia della moto e così vai a piedi, hai capito? Ehi, zio Natta, come stai? Io già sto bene, peso già 60 kg, hai capito, bello bene? Questo più che piacere mi fa, bene meda, almeno torni alla normalità, vuol dire che va tutto bene, no, mi ho sentito Luca, c'è andato a salutarlo, ma che rimane in bagno un sacco di voce, non c'ho tempo di niente, e voglia, poi con questo caldo che stava facendo oggi magari è una giornata un po' più fresca, ti dà anche il cuore 10 minuti a fare scaldare questo barracchino, se no cosa, non che c'è un gatto che la vendi, ciucciu. Ma senza radiali è quell'antenna nuova che hai preso, tipo la J-Pol classica. Sì, la J-Pol è senza radiali. È un bel alto, può mettere 50 ma senza radiare in atteria, è ancora una bella antenna, una 7-8, c'è una ricezione che è una cosa spettacolare, proprio sembra che facendo le prove sembra che attacchi in lineare, io passo da 9.30 da Roberto che siamo vicini, in linea d'aria, passo 9.30, 9.35 commutando l'antenna, adesso l'ho staccata perché sto facendo a voi, stavo dicendo a Luca, se no te l'avrei fatto sentire. Ehi, l'altro giorno già abbiamo parlato, che ti arrivavo 9.10 mi sembra. È vero, ma sicuramente mi arrivi poco più di 9, mentre la Jeep mi arrivi 9 più 10 pieno. Aspetta, che sto usando 2,5 watt. Guarda, come ti arrivo, aspetta, no, ti ho sbagliato, vaffanculo a me. Ecco qua. Quasi 9.10, sì. Quasi 9 più 10, buono, ottimo segnale. Se da non vi ascolto tutti benissimo, c'è Antonio e fa strike, che Antonio c'ha un segnale, 9 più 20, come mi arrivava a Carbonati mi arriva qua. È logico, dici che abbassiamo 10, no, non si sa mai. E Natalia ancora di soffrire un altro paio di mesi, poi buonissimi e debbiati, come cambia il sistema, tutto in HD, hai finito il tuo bar. Sì, di una bozia. Dunque non ha visto Luca stamattina. Luca, come ti sono sembrato? Cazzo, 52 kg pesavo prima, adesso sono arrivato già a 60, ma hanno detto a 62 a bloccare. Ma niente, me la fortuna, tanto la glicemia mi sale poco a me. Si va a mangiare dolci, no? Mangia normalmente, magari un po' di più, però stai sempre attento, non te l'hai capito. Non fa per macco, no? Oh, non so macco, no. Sto mangiando di più, adesso riesco a mangiare, capito? Prima non virava lì un gruppo a mangiare. Mangiava appena subito pieno. Ma gli manca, già ne sa qualcosa a Luca, che anche lui c'ha quella roba lì da operare. Capito, Dio, già va bene, dai. L'importante è che si ripreso e stai bene. Io ti ripeto, sto entrando poco perché non a Giovanna, e poi c'è un sacco di cose da fare, un sacco di lavori da fare. Anche ieri mi ero alle ore, via a comprare materiale, capito? Però già quando ho 5 minuti già entro a salutarvi, dai. Sì, anda bene Meda. Io ero in giro lo stesso stamattina a fare un po' di spesa con mia moglie, anda bene Meda. Ho sentito anche a Franco stamattina che doveva scendere Alghero, doveva scendere. Ah, Franco Benario, vabbè, Franco già, già di casa, Franco è già venuto qua, anche perché la moglie è collega di mia moglie, quindi trattiamo diversamente, non abbiamo bisogno della radio. Già lo so che ardore figli, ma i figli, oddio. Già sta lavorando lui, la moglie e i figli. Sì, già lo so, lui sta lavorando al vero, dice che sta lavorando al vero. Oh signor, e andava bene. Tutto bene quel che finisce bene. E allora già gli va. Ciao, vabbè. Non ci possiamo lamentare, dai, si va avanti, tanto di ieri che aveva, purtroppo, adesso c'è ancora questo cazzo di pandemia in mezzo alle balle, se non si toglie quella non riusciamo più a riprendere la cosa che avevamo prima, il routine che avevamo prima, è un casino, boh. E la gente deve capire che si deve vaccinare, se no non riusciamo vinti da ori, si stancano le attività e d'ora, come in cazzo di vasi. Fanno un danno enorme. Già lo so che fanno un danno enorme, ma voi per farglielo capire voi già cosa vuoi fare. Purtroppo, ecco la Sicilia, però il problema è Sicilia-Sardegna rispetto alle altre regioni, perché noi siamo un posto turistico, la gente è arrivata tutta di corpo e la immobiliare vengono le vostre mani. Sì, vabbè, comunque speriamo che si vaccinino tutti il più presto possibile, se no almeno per contenere i contagi, non è altro, perché essendo vaccinato te lo puoi anche prendere il Covid, però non finisci in rianimazione, capito? Sì, io lo so, non finisci in rianimazione, però in pratica c'è un bel di gente in ospedale di nuovo, capito? Tutto qua, vabbè. Vedremo cosa fare, se avete di chi ha. Io spero che riusciamo a questo casino, se no è un bel brutto. Lugariello non risponde, chissà cosa effendi. Manca a me, ma rifuso quando l'ha giudito, a vedi come ti mabbisci, ci mangia. Stamattina mi ha visto Luca. Sì, già me l'hai detto, vuol dire che già va tutto bene, va. Cosa dirò? Adesso segui le direttive, le cose, fai tutto quello che devi fare. Sì, devo andare solo a fare la visita diabetologica e all'endocrinologo devo andare a fare un'altra visita e tu ti lasci aggiungati. Io vabbè, piano piano già va tutto bene, dai, non ti preoccupare. Sì, guarda che ero messo male, ma messo male veramente, sono vivo da miracolo. Sì, va bene, Natalie. Tutte le cose hanno sempre una fine, tutte le cose hanno sempre una fine. Quindi tu hai seguito quello che dovevi fare, le operazioni giuste, è andato tutto bene, adesso piano piano ti riprende, vedrai che torna alla normalità. Sì, andiamo. Sì. Con Luca, per colpa tua, gatta, mi sono anche tagliato, è diventato vetro e quella protezione c'era davanti allo schermo del telefono. Comunque non vedo manco un graffio nello schermo. Viaggio di raddu, vetro è diventato. Aspetta di lasciarlo, cazzo, no, te la giudico, te l'ho detto. Perché ha fortuna, molte volte si spacca quello di sotto, anche quello di sopra, dipende da come prende il colpo. È a fortuna, io per esempio il mio adesso non ha protezione, l'altra volta mi è caduta a faccia a terra, il mio, l'S10 mio, no? E meno male non si è rotto, perché? Perché la custodia ha poco di bordo, lo tiene un po' sollevato. Se non avesse la come si chiama, la custodia sarebbe rotto, mamma mia. E infatti mi sa che domani vado e mi compro una custodia, perché ce l'avevo quella di dietro, ma me la prendo che mi chiuda anche lo schermo, va, mi rabbio come si sblocca. Tanto me lo metto nel borsello io il telefono. Oh Lu, e il Galaxy bene sta andando? Bene va come modulazione? La voglia, perfetta. Vabbè, anche questo già, sempre su radio, vabbè che 2.20 non è quasi in onda. Gappa, ottimo per la truppa. va bene, va bene. Dai raga, io ho salutato Vio, sentito Vio, adesso mi allontano perché vado a farmi innaffiarmi quelle due piante che ho, e poi magari se ci siete sentiamo dopo, ok? Ciao tata, ciao a certe lugarie, dai, e un abbraccio a tutti quelli che sono in ascolto, ciao. Del venti o un vento? Belle? Tu hai detto che quel baracchino è 220, il mio è un vento. No, questo è 220, è 220. Prende il maestrale e greccare. Cabe di vella, vabbè, dai. Non so manco chi ne sono, ce l'avete l'orologio lì? Ehi, boh, ce ne sono i setti, boh, come boh, che ora è Natale, anche io non ho qua dentro. 18.45. Mi sa andare la mia bedifella, là. Vabbè, dai, anch'io ti saluto Natalia, tra un po' usciamo, sono molto, e niente, là, va bene, ciao a tutti e alla prossima, ciao, buona serata. Ciao, altrettanto a te due, alle prossime, là, Quirix per me. Ciao, ciao Natalino, ciao Luca, se ci siete già entro dopo fammi due chiacchiere se c'è qualcuno, se no pazienza, ciao. Vabbè, io lo lascio acceso, dai, nel caso mai dopo entro così a fare altre due battute. Quel momento mi assento, dai, guarda la pomera più di svella. Ehi, ehi, io vado a innaffiare già, torno dopo, là. Ciao a tutti. Vai, va. Ciao, ciao, fra. Vai alla pomera più di svella.